fantasia già realtà. Vicino a me c'è un angelo che si rivela nel dolce profumo di un fiore. Mi toglierò la maschera, mi vestirò di nuvole, accenderò l'oscurità con quella fiamma che brucia in fondo al mio cuore. Calderai con quella fiamma che brucia in fondo al cuore.